Euro Reportage. Sea Handling, un pasticcio italiano sotto la lente di Bruxelles, di Valeria De Rosa e Maria Chiara Grandis. Non c'è nessuno che può in qualche maniera sentirsi al sicuro di una situazione come questa. Le ricadute ci saranno su tutta la SEA in generale, anche la SEA, non solo SEA Andri. Tenga presente oltretutto che questa è l'azienda più grossa in Lombardia. Nella mia famiglia siamo in due che portano il stipendio, due della SEA Handling. Mio marito è SEA Handling, io sono SEA Handling, abbiamo due bambini, lavoravamo a Linate e siamo stati trasferiti a Malpensa. Se succede qualcosa siamo in due persone che perdiamo il posto di lavoro, siamo tantissimi. Qualsiasi soluzione alternativa al rimborso integrale degli aiuti ricevuti indebitamente da SEA Handling deve necessariamente comportare una discontinuità tra la forma societaria attuale e il nuovo operatore che acquisirebbe le risorse dell'impresa. Il frasario è di quegli austeri e un po' rigidi, proprio di certi palazzi, ma il concetto è chiaro. Il commissario europeo alla concorrenza, Joaquín Almunia, indica la via da percorrere e la via è quella della vendita, vendere SEA Handling. La vicenda è la seguente. La società gestisce l'assistenza a terra negli aeroporti di Milano, Malpensa e Linate. È nata nel 2002 e negli ultimi 10 anni la controllante SEA, il cui azionista di maggioranza è il Comune di Milano, ha messo più volte mano al portafoglio per ricapitalizzare la controllata. La Commissione europea ha bollato questi interventi come aiuti di Stato, proprio in virtù di quella partecipazione del Comune. Parliamo di 360 milioni da restituire, senza se e senza ma, perché Bruxelles ha respinto il ricorso presentato da società, governo e comune, giudicando insufficienti le motivazioni addotte da SEA, ovvero essere un soggetto di diritto privato. Fino a questo momento SEA, Comune e Governo hanno fatto orecchie da mercante, confidando in un ripensamento da parte della Commissione. Del resto in ballo ci sono circa 2.700 posti di lavoro tra diretti e indotto. Ma ora che c'è solo più il ricorso alla Corte di Giustizia, che se deciderà di sospendere la richiesta della Commissione sarà solo per motivi di comprovato pericolo e non entrerà nel merito, qualcosa bisogna pur fare. I lavoratori da mesi chiedono un intervento politico e societario. Hanno fermato le attività, hanno scioperato, manifestato, bloccato le strade che portano agli aeroporti, per dignità e perché con quel lavoro ci vivono famiglie intere. Dove siete? State buttando al macero un bene comune come la SEA, che ha sempre prodotto attivi per tutta la cittadinanza di Milano e non. Oggi ci ritroviamo a protestare per l'ennesima volta con lo sciopero generale, al quale verrà rinnovato lo stesso sciopero a fine mese. Almunia sottolinea che la discontinuità tra sé e la nuova società deve essere autentica, nel pieno rispetto dei criteri identificati da una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Perentorio. Ma che vuol dire? Il commissario ha scritto ad alcuni europarlamentari. Antonio Panzeri è tra i destinatari. Dalla lettera si evince che conferma le cose che ha detto in diverse occasioni anche alla stessa azienda. In sostanza dice che vi è stato un periodo investigativo in base al quale poi l'azienda ha potuto portare le proprie ragioni e che probabilmente le ragioni che ha portato non sono sufficientemente valide per ottenere la sospensiva e il cambiamento di programma. Non credo oggettivamente che ci sia un invito allo spezzettamento, credo che ci sia un invito a verificare concretamente le condizioni per una sorta di ridisegno del perimetro aziendale. Non so neanche se il tema possa essere ampiamente risolto attraverso un ulteriore processo di privatizzazione. Ciò che mi pare di evincere dalla lettera è che davvero si vuole ridisegnare il perimetro aziendale, di per sé non significa creare una politica dello spezzatino, come viene chiamata, ma proprio una ridefinizione della stessa azienda, introducendo quegli elementi di discontinuità che permettano appunto alla Commissione europea di dire che davvero siamo di fronte a fatti nuovi e questi fatti nuovi possono portare alla sospensiva e persino anche all'annullamento dell'infrazione. Dunque lo spezzettamento no, meglio di no. Ulteriore privatizzazione? La quota di maggioranza di SEA Handling, come abbiamo detto, è nelle mani di Palazzo Marino. Il resto è patrimonio di F2I. Ma non è detto che il fondo abbia voglia di ampliare la propria partecipazione. Anzi, non sembra proprio. E poi, lo dice lo stesso Panzeri, la privatizzazione potrebbe non essere sufficiente. E allora? E allora sul tavolo resta la vendita. Ma SEA Handling non è come tutte le altre. E lo spiega Rocco Ungaro, segretario generale FILT Lombardia. Non si può vendere un servizio che non appartiene a SEA Handling. SEA Handling ha solo dei contratti commerciali, di breve durata per di più, con una diversa quantità di società compagnie aeree che gli affidano i servizi. Da un momento all'altro, alla scadenza del contratto, quel servizio non c'è più. Quindi non, la gara è sui contratti commerciali, quindi cosa ricaverebbe? Niente. Metteremmo il servizio frantumato in mano a diverse società che non sono affatto garanzia di qualità e con una condizione dei lavoratori fuori controllo. Quindi il rischio che lo spezzatino produca un esercito di precari è piuttosto alto. Non stiamo parlando di mantenere lo stesso stipendio, stiamo parlando del tentativo di salvare il posto a condizioni dignitose. A questo punto, affrontare la situazione dal punto di vista politico è ben più di una possibilità, è quasi una scelta obbligata. Franco Nasso è il segretario nazionale della FILT CGIL. Noi abbiamo chiesto anche in passato un intervento del governo su questa questione e più in generale sulle questioni di regolazione all'interno del mondo dei trasporti e del trasporto aereo in particolare. Devo dire che non abbiamo avuto molte risposte dai governi passati, anche dal governo Monti e dal ministro Passera in particolare. Oggi ci aspettiamo, insomma, che ci sia un'azione un pochino più incisiva del governo che consenta una via d'uscita che non necessariamente deve lasciare le cose come sono, naturalmente, però bisogna trovare una soluzione concordata che consenta di non distruggere un altro pezzo di industria del trasporto aereo nazionale. Abbiamo letto la lettera di Almunia, conferma la debolezza di interlocuzione che abbiamo nei confronti dell'Europa, il che non vuol dire che non ci siano delle cose, insomma, da sistemare, insomma, dentro i rapporti tra la società di SEA, ma dice anche che il modello di liberalizzazione che si è implementato in Italia in questi anni è un modello che andava diversamente regolato o almeno regolato alle stesse condizioni nelle quali è stato regolato nei grandi paesi dell'Unione. Da nessuna parte c'è questa distruzione del sistema che c'è stata in Italia negli aeroporti o nell'insieme del trasporto aereo. Ogni paese ha difeso le sue industrie, comprese quelle, insomma, trasportistiche. Da noi no, c'è un problema più generale di regolazione dei processi e di rapporti nei confronti dell'Unione che non mi pare abbia lo stesso criterio di misura tra l'Italia e gli altri grandi paesi. Ricapitolando, entro fine maggio SEA Handling deve restituire 360 milioni a SEA. Questa somma va iscritta a bilancio. Non essendo nelle possibilità di SEA Handling rifondere tale somma, la società si avvierebbe al fallimento. A meno che SEA non presenti a Bruxelles un piano B ritenuto valido da attuare in tempi brevissimi. Se poi la Corte di Giustizia accogliesse il ricorso, ci sarebbe qualche mese in più per ragionare sulla soluzione. Altrimenti, Antonio Panzeri. Se questo pronunciamento della Corte non sarà positivo, è chiaro che bisognerà oggettivamente, nel giro di pochissimo tempo, consegnare alla Commissione un piano alternativo, fattibile, credibile, che possa produrre i risultati e quella discontinuità di cui parlavamo. Queste sono, per così dire, la sequenza degli interventi che devono essere fatti. È del tutto evidente che se nessuno fa niente, quello che il tema di cui mi parlava prima può diventare all'ordine del giorno, però io non è obbligatorio andare su quella strada, anzi io direi proprio che sarebbe davvero sbagliato andare sulla strada di un'idea del fallimento dell'azienda. Abbiamo provato a contattare il Comune di Milano per conoscere la posizione di Palazzo Marino sulla questione, non abbiamo avuto risposta. Nota finale. SEA Handling è la storia di un pasticcio che rischia di mandare in mezzo a una strada lavoratrici e lavoratori. Un rischio che oggi riguarda molti, che per questo manifestano. In questi mesi è cresciuta la solidarietà di chi si ritrova a fare i conti con gli scioperi altrui. Guardi, non so di che cosa mi stanno manifestando ancora, però se penso che stanno manifestando, vuol dire che qualcosa non va, o no? Dobbiamo recarci al lavoro e niente, non sapevamo della manifestazione, però approviamo chi protesta per giuste cause, aspettiamo. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.